Ci siamo tornati. Purtroppo per voi. La siete cercando. Adesso ve la beccate tutta. Ai ai ai ai ai ai ai. Certe cose che capitano. Sono rimasto sulla soglia, non ho più neanche una voglia, quasi quasi piangerò. Che mi ha lasciato anche la donna, quella con la minigonna, credo si chiamasse Gianna, mi ha lasciato una lampa. Dice che sono scontroso, che non vedo mai nessuno, che sto sempre chiuso in casa, che non sono spiritoso. Da un cervello sotto al mare, dovrei farmi visitare, dovrei andare da un dottore, mi dovrei ricoverare. Del mio gatto, lei non gliene frega un cazzo, dice Giacomo ti avverto, vengo a casa e te l'ammazzo. Ma io facevo per parlare, non si può neanche scherzare, dice quell'amore, amore, non ti posso sopportare. Poi non sono bravo a letto, non le piace quel che faccio. La mia macchina è già secca e poi mi muovo come un matto. Ed io le ho scritto una canzone in re minore. Io che sono cantautore, lei che dice va a cagare. Non ti voglio più vedere, non ti pare più trovare. Manco fossi un animale, qua mi tocca di scappare. Fa la faccia molto seria, io le dico amore scusa, non farai mica l'offesa. E non mi prende per un pelo, resto appiccicato e duri. Poi mi vado a fare in culo ed io rimango chiuso fuori. Sono rimasto chiuso fuori. Averci ascoltato, noi siamo Giacomo Scudellari e Band. Ringraziamo per averci ascoltato fino adesso. Il Duna Studio per averci fatto il service e Fabrizio al mix. Grazie mille, alla prossima!